Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buona giornata da Valentina Furlanetto, bentornati a questo appuntamento con Salva Danaio. Chiusura di settimana con il segno più, per fortuna, per i mercati quest'oggi, come avete sentito anche dal nostro collegamento durante il GR, e tra poco vedremo proprio gli spunti di questa giornata in borsa. Ma oggi vogliamo parlare di mercati perché la settimana fino a ieri non è stata poi così positiva, il tema si impone. Ieri abbiamo avuto una giornata pesante con forti vendite prima a Tokyo, che ha chiuso con un tonfo del 6,7, poi Wall Street e un po' tutta l'Europa in realtà anche, ma insomma Wall Street ha ceduto in chiusura al 5,56%. Per riepilogare un po' la giornata di Wall Street, che tra l'altro sottolinea alcuni dei temi sul piatto, no, dei mercati, durante la seduta il Dow Jones ha toccato un minimo dopo il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione ai massimi da 16 anni e con l'annuncio che il superindice, l'indicatore che registra l'andamento dell'economia americana, era in contrazione dello 0,8%, peggiore quindi delle attese. Poi il Dow Jones ha recuperato sull'onda di indiscrezioni che davano per approvato o quasi approvato dal Congresso il piano di aiuto per il settore automobilistico, come sapete in forte affanno in America. Infine, smentita questa notizia, il tonfo finale. E poi c'è anche il tema delle banche. Ieri Citigroup ha accusato un calo del 26,4%. Bank of America del 13,8%, JP Morgan Chase del 17,8%. Su tutto questo si è aggiunto il prezzo del greggio, che ieri è sceso sotto la quota dei $50 a barile, ed è sceso il prezzo in generale del greggio in 4 mesi del 63%. Oggi sui mercati sembra essere tornato un po' il sereno, vuoi per alcune notizie di stampa come l'articolo del Wall Street Journal che sostiene che i vertici di Citigroup starebbero studiando le possibili soluzioni per far fronte alla crisi, tra le quali la vendita dell'istituto. E insomma, i mercati sembrano riprendere fiato, ha iniziato con Tokyo che ha chiuso a più 2,7% e ora l'Europa e va un po' meglio. Ma quanto durerà è quello che si chiedono tutti, e volatilità che cosa comporta, come, dove si può investire al meglio in una situazione di questo tipo. Per parlarne con voi il numero è come sempre l'800240024, oppure per scriverci 349-238-6666. Abbiamo in studio, che ci può aiutare, Angelo Drusiani, gestore responsabile gestioni di Banca Albertini SITS. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, una situazione un po' instabile, tra poco ne parleremo, tra poco lo vedremo anche nel dettaglio nella nostra scheda, ma proprio perché parliamo di mercati diamo un'occhiata a cosa sta accadendo adesso nel vecchio continente. Francoforte più 0,88, Parigi più 0,80, Londra guadagna lo 0,66%, questa mattina i mercati hanno raggiunto anche guadagni dell'1,5%, hanno un po' ripiegato. Il MIB del più 0,51, il MIB 30 più 0,63%. A Milano vanno bene i titoli bancari, alla riscossa direi, il sottoindice in Europa sale dell'1,3% a incoraggiare gli ordini di acquisto, dicevamo, questo articolo probabilmente del Wall Street Journal. E in Italia Unicredit guadagna il 3,08%, il migliore del listino principale in questo istante, Intesa più 2,89% e Mediobanca più 2,78%. Bene anche Fiat più 2,7%, che rimbalza nonostante l'incertezza che continua a sovrastare sul comparto auto all'indomani della decisione del Congresso americano di rinviare a dicembre il voto su eventuali aiuti al comparto auto. Le prese di beneficio spingono al ribasso invece Mediaset, meno 2,38%, salite nei giorni scorsi dopo che il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha rassicurato sulla cedola che prevede invariata, anche se la decisione verrà presa in realtà a prima vera. Meno 2,84 Telecom. Il mercato si interroga sulle indicazioni contenute nel piano industriale che sarà presentato il prossimo 2 dicembre. Bulgari -2,5, va male un po' tutto il comparto del lusso, come anche nei giorni precedenti. Il Bulgari ha anche presentato una trimestrale inferiore alle attese, con stime al ribasso. Ma la peggiore è Atlantia, -6,46%, cercheremo di capire perché. E poi Saipem, -3,78%. Da registrare anche un'affermazione del direttore generale dell'FMI stamattina, Domenico Strauss-Kahn. Ha detto che la crescita mondiale ripartirà alla fine del 2009, ma persistono i rischi di una nuova catastrofe nella finanza globale. Insomma, non ottime notizie. Euro quotato. Strauss-Kahn non è ottimista in questo caso. In un'intervista a un quotidiano francese ha dichiarato tutto questo. Euro, per chiudere la pagina, diciamo questa pagina sulle quotazioni attuali, euro sul dollaro a 1,2421 in questo istante. Ma prima di parlare con voi all'800240024 oppure al 349-238-6666, farei sentire qualche indicazione, qualche spunto che abbiamo cercato di riassumere in questa scheda. I timori riguardo il futuro dell'economia mondiale tornano a dominare la scena e a dare l'ennesimo colpo di grazia alle borse. Dopo l'allarme recessione, è ora lo spettro della deflazione che aleggia sugli Stati Uniti a far tremare i listini. E nemmeno le misure anticrisi prese finora dai governi e dalle banche centrali sembrano convincere gli investitori, che restano in difesa per fare fronte a una volatilità senza precedenti. E le prospettive per i prossimi mesi non sono di certo incoraggianti, considerato che nei giorni scorsi la Federal Reserve ha tagliato le stime di crescita per i prossimi anni, annunciando che solo nel 2010 l'economia dovrebbe riprendere a marciare. Una notizia, quest'ultima, che ha fatto scivolare Wall Street nella seduta di mercoledì ai minimi storici. E il contraccolpo sulle piazze asiatiche ed europee non si è fatto attendere, aggravando così il bilancio borsistico già in profondo rosso da inizio novembre ad oggi. Il pessimismo, comunque, è generalizzato. Secondo un sondaggio mensile condotto da Merrill Lynch su 180 grandi fondi di investimento, oggi la percentuale di coloro che non hanno una visione ottimistica ha toccato il massimo storico dell'87%. Non manca però qualche segnale incoraggiante. Scende infatti al 54%, dal 62% di ottobre, la quota di quanti sottopesano le borse. Segno che qualcuno inizia a considerare l'ipotesi di entrare nei mercati approfittando dei prezzi di sconto a cui trattano al momento diversi titoli. Sul fronte degli investimenti continua invece la fuga dai titoli finanziari e da quelli ciclici, come le materie prime, a vantaggio di titoli anticiclici, come i farmaceutici e le utilities. L'unica nota positiva al momento sembra giungere dal fronte petrolio, che ha raggiunto il nuovo minimo da 22 mesi, intorno a quota $50 al barile. E si diceva nella nostra scheda rischio deflazione, cioè crisi così forte da far crollare i prezzi. Per darvi un dato, i prezzi al consumo negli Stati Uniti per la prima volta da 61 anni si sono contratti in ottobre dell'1%, alimentando così i timori per una possibile deflazione. È così? Questo è un timore che avete, Drusiani? Io credo che i timori che nascono in questo momento siano legati soprattutto alle prospettive dell'occupazione negli Stati Uniti, perché se, come sta apparendo dagli ultimi rilevazioni, la disoccupazione sta aumentando, è evidente che l'impatto sui consumi è molto elevato. Le aziende, pur di evitare di avere dell'invenduto nei prodotti che fabbricano, sono costrette a far scendere i prezzi se vogliono vendere. La stessa situazione si verifica ovviamente in maniera negli Stati Uniti molto più marcata per quanto riguarda i prezzi degli immobili, quindi nel complesso c'è un calo dei prezzi che dovrebbe servire a far sì che i consumi non si contraggano in maniera eccessiva. Però io credo che il rischio che i consumi comunque scendano, non dico in maniera importante, però in maniera superiore a quelle che sono le attese, perché negli Stati Uniti di solito i consumatori non è che si preoccupino tantissimo di qual è la situazione finanziaria interna, loro guardano sempre, sono sempre abbastanza ottimisti, però in questo momento io credo che anche da loro questo timore della disoccupazione li stia inducendo a ridurre comunque la propensione ai consumi, e ovviamente da qui si scatena la deflazione, nel senso che le aziende faranno in modo che i prezzi scendano per cercare di sviluppare i consumi, perché un aspetto importantissimo, noi crediamo sempre che tagliando i tassi di interesse si risolva la situazione, credo che invece sia una insomma, una chimera. I tassi non bastano, bisogna tagliare le tasse, ma in questa fase è abbastanza difficile. Sì, credo proprio di sì. Dicevamo, le richieste di sussidio alla disoccupazione settimanali sono salite molto, mostrando appunto questo deterioramento del mercato del lavoro, ma oggi notizie di stampa davano anche notizie abbastanza preoccupanti su anche il taglio in Europa di posti di lavoro da parte delle grandi aziende. L'Europa, lo scenario è molto diverso? In Europa lo scenario è leggermente meno pessimista di quanto sia negli Stati Uniti, però non va dimenticato che in Europa vi sono molte multinazionali di marca americana, quindi se devono tagliare gli americani è evidente che tagliano prima all'estero prima di tagliare in casa propria, quindi di conseguenza sicuramente io faccio riferimento ad esempio al settore bancario, al settore finanziario in generale. Io penso ad esempio a cosa potrebbe accadere a Londra, laddove è concentrata una grossa fetta della finanza internazionale, di quella europea in particolare, anche grazie, anche in virtù della presenza di molte banche americane che hanno filiali un po' ovunque. Quindi sicuramente anche in Europa se ne si risentirà. Forse in Italia un po' meno, perché essendo un paese con aziende medio-piccole la situazione potrebbe essere meno difficile, però bisogna tenere conto che le aziende medio-piccole spesso lavorano per quelle grandi e quindi sicuramente qualche contraccolpo sarà anche da noi, credo in misura inferiore rispetto a quello che accadrà negli Stati Uniti. Citigroup, si diceva, no? Con ripercussioni probabilmente anche in Europa per quanto riguarda l'occupazione del personale di Citigroup. Però queste banche, con queste notizie di stampa stamattina, stanno riprendendo un po' fiato. È un momento soltanto oppure può essere uno scenario di un periodo fosco per le banche un po' forse superato, il peggio è passato? Ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è un aspetto squisitamente tecnico. Dopo le forti cadute dei giorni scorsi, un rimbalzo delle quotazioni è abbastanza prevedibile, quindi potrebbe anche verificarsi una fase in cui i mercati, in particolare il comparto finanziario e bancario, possa tendere a migliorare. L'altro aspetto è che la presenza del settore pubblico comunque in qualche maniera alimenta speranze affinché il settore, il comparto bancario nel suo complesso, possa uscire dalla crisi che lo sta attanagliando. In più gli investitori, i fondi sovrani, gli investitori arabi, gli investitori cinesi probabilmente hanno interesse ad acquistare alcune banche americane, perché Citigroup è una banca comunque importantissima, la prima banca al mondo, e probabilmente adesso la si potrebbe comprare, almeno una quota di questa si potrebbe comprare a prezzi abbastanza convenienti. Anche se le prospettive per il 2009 non sono brillanti per le banche in generale, quindi giustamente forse bisogna aspettare il 2010, forse anche gli anni successivi per vedere riprendere gli utili in maniera importante. Nel 2009 gli utili anche delle banche non credo che saranno tradizionalmente importanti come avviene nel passato, come è venuto negli anni passati, di conseguenza un ritorno immediato non ci sarà, però in prospettiva futura per chi effettua investimenti a medio e lungo periodo credo che acquistare adesso banche sia un aspetto positivo. Ai prezzi attuali penso di sì. Cristian da Modena, buongiorno, abbiamo un ascoltatore, mi pare di capire, che vuole proprio parlare delle banche. Esattamente. Del settore, insomma. Io ho delle obbligazioni della Citigroup, quindi non sono disperato come un azionista, però insomma sto cominciando a essere abbastanza agitato. Col discorso che praticamente dopo Lehman non avrebbero fatto più fallire nessuno, mi chiedo, faranno così anche con Citigroup in un modo o nell'altro, o mi devo preoccupare, mi conviene venderle e prendermi quella piccola perdita che ho e dormire sereno sostanzialmente. Grazie Cristian. Non parliamo di solito di titoli specifici, ma Citigroup è una banca grandissima americana, è un caso, no? Cosa succederà, Drusiani? Io non credo che Citigroup fallirà, perché comunque il Tesoro americano e l'esecutivo americano sono impegnati in tal senso, hanno messo a disposizione anche una cifra non consistente, comunque di un certo livello, per evitare che ciò accada. Dal punto di vista delle obbligazioni sicuramente la prospettiva immediata non è molto favorevole, perché i timori che hanno i mercati è che all'interno dei gruppi bancari vi possano essere ancora delle perdite consistenti che non siano emerse fino ad oggi. È vero che nei bilanci di quest'anno i prezzi possono essere congelati al 30 giugno, quindi le perdite successive possono essere bloccate e quindi gli asset che sono in portafoglio delle banche possono essere espressi a prezzi superiori a quelli di mercato. Per quanto riguarda le obbligazioni di Citigroup, ma per quanto riguarda le obbligazioni delle banche in generale, la prospettiva di ulteriori cali sensibili dei prezzi non dovrebbero essercene, anche se non va dimenticato che si tratta di titoli sui cui rating potrebbero esserci dei tagli anche importanti da parte delle agenzie specializzate. Quindi se la propensione al rischio del risparmiatore non è molto buona, come mi sembrava di sentire, mi pare di capire che avesse addirittura che vorrebbe dormire a sonni più tranquilli, se la perdita che ha in portafoglio non è consistente, forse sarebbe opportuno quantomeno ridurre l'esposizione a questa tipologia di titolo. Ecco, la differenza molto spesso che esiste tra un gestore e un risparmiatore privato è che il gestore, quando ha timori che i mercati vadano male, preferisce, come si dice, tagliarsi un dito anziché il braccio, comunque vende in perdita senza preoccuparsi di ciò che accade, perché potrebbe succedere che in futuro possa perdere anche di più. Quindi il consiglio mio è quello che, se l'importo è rilevante, una quota può essere venduta quantomeno per evitare ulteriori affanni in futuro. Il caso Lehman è stato discusso molto, il fatto che l'America abbia lasciato fallire Lehman, quindi ci sono timori anche in questo senso per Citigroup? No, in questo senso non credo. Lehman è stata fatta fallire, pare, perché ha la propria attività soprattutto fuori dagli Stati Uniti e quindi all'interno ha inciso in maniera abbastanza relativa. Però a livello mondiale l'incidenza del fallimento Lehman è stato, dal punto di vista psicologico, abnorme, perché per la prima volta ci si è trovati di fronte, dopo tantissimi anni, al fallimento di una grande banca. E questo sicuramente ha spaventato gli investitori. Anche a livello psicologico, certo, proprio. A livello psicologico. In più poi va tenuto conto che con Lehman tantissime banche avevano in piedi posizioni che dovevano chiudere, sistemare, quindi sono state posizioni chiuse, riaperte altrove, e quindi c'era un intreccio di attività molto importante, e questo ha sicuramente pesato anche nella condizione degli investitori, su questo non c'è dubbio. Però non credo che avverrà ancora, perché insomma si è trattato di un errore abbastanza importante. Credo che gli Stati Uniti, le autorità monetarie degli Stati Uniti se ne siano rese conto. 800 24 00 24 per chiamarci. Stiamo parlando questa mattina di mercati, di investimenti, e quali sono gli scenari che abbiamo davanti, visto l'andamento delle borse, in quali comparti forse è meglio rifugiarsi piuttosto che in altri. 349 238 6666 invece per mandarci degli sms. Il petrolio, dicevamo, ieri sotto i $50, oggi è leggermente risalito, è sceso moltissimo, come dicevamo, in 4 mesi del 63%. I titoli, in questo senso, ieri abbiamo visto un calo forte un po' in tutta Europa dei titoli oil. Sì, il problema dei titoli oil è che di fronte alla caduta del prezzo del greggio, sicuramente le entrate si contrarranno in maniera abbastanza importante, e di là si contrarranno anche gli utili. Ora, i prezzi dei mercati borsistici sono quasi sempre indirizzati a vedere quali sarà il ritorno reddituale che questa tipologia di investimento porterà, nel senso di valutare quale potrebbe essere il dividendo futuro sulla base degli utili che l'azienda otterrà. Ora, se si considera che le aziende potrebbero avere in futuro degli utili in netto calo, è evidente che anche i prezzi di mercato subiranno una contrazione abbastanza importante. Quindi in questo senso i titoli legati al petrolio sono molto sensibili, sia quelli che estraggono petrolio, sia chi trasporta petrolio, sia chi svolge attività per estrazione del petrolio stesso, quindi le aziende del comparto in generale, che ne patiscono un po' tutte, per la ragione che di fronte a minori entrate, minori utili, la quotazione del titolo deve per forza scendere. Sono abbastanza a saldo adesso questi titoli? Però non si possono fare previsioni sul prezzo del petrolio, no? È un po' difficile, quelle che sono state fatte a gennaio, poi... Ma ancora oggi ci sono previsioni di un ritorno del prezzo del petrolio a $200 al barile, quindi questo però potrà avvenire se e quando la ripresa dell'economia tornerà a marciare come negli anni passati. Fare previsioni, lei ha introdotto un ragionamento molto interessante. Siamo a prezzi di saldo, i prezzi di saldo sarebbero questi se gli utili futuri fossero come negli anni passati, perché a quel livello ovviamente il rapporto fra prezzi e utili sarebbe abnorme. In realtà noi temiamo, in generale si teme, che gli utili si possano contrarre in maniera anche abbastanza importante se scendono i fatturati, se scendono le vendite in generale. Di conseguenza, ritenere che in questo momento i prezzi possano essere di saldo, no. Che possano essere prezzi interessanti, quello sì, però che possano non più scendere da questi livelli è ancora difficile da valutare. Bentornati a Salva Danaio, oggi parliamo di mercati, di scenari finanziari per quanto riguarda i mercati. 800 24 00 24, è con noi per aiutarci Angelo Drusiani, responsabile gestioni di banca Albertini Seeds, che ci aiuta un po' a rispondere a voi ascoltatori che ci state chiamando. Matteo dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, ecco, e volevo chiedere un parere vostro, così. Io sono un lavoratore e mi pongo, diciamo, la questione fiducia. Come lavoratore, in senso, vedo che ci sono dei problemi. Come consumatore ho dei problemi. Come risparmiatore, ovviamente, altro. Cioè, io dove attingo questa mia fiducia? Allora, quindi io mi faccio un ragionamento, no? Allora, mi caleranno le tasse, caleranno i prezzi, qualche ammortizzatore sociale. Cioè, io dico, una famiglia come può attingere questa fiducia? Si aspetta qualcosa dal governo anche? Grazie Matteo. Beh, quello della fiducia, generalmente parlando, è un tema molto forte e che sicuramente influisce sull'andamento dei mercati, sul modo in cui gli investitori si pongono. Drusiani, è così? Io credo che occorra fare uno sforzo abbastanza importante, nel senso che negli ultimi 20-25 anni gran parte di noi ha vissuto al di sopra di quelle che sono le possibilità che la terra ci poteva offrire. Il fortissimo indebitamento di molte famiglie, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa, ha fatto sì che si sia potuto intervenire nei miglioramenti del mondo stesso, probabilmente senza avere poi le basi per poterle sostenere. Quindi questo tutto per dire che forse un piccolo ridimensionamento del nostro tenore di vita sarà indispensabile in assoluto, perché le ricchezze fittizie che si erano costituite non ci sono più, o quantomeno tendono a scemare. Per quanto riguarda l'investimento, la fiducia in questo momento è riposta soprattutto, paradossalmente, come accade nei momenti peggiori, sui titoli di Stato, perché lo Stato comunque garantisce ancora la solvibilità dei propri debiti, il pagamento delle cedole e così via. Quindi se dall'altro punto di vista occorre ridimensionare un po' il nostro tipo di vita, per quanto riguarda i risparmi, io credo che al momento, lasciandoli ancora investiti in titoli di Stato, non si dovrebbero correre particolari rischi. Parliamo anche del settore auto. Prendiamo spunto da un sms che ci è arrivato al 349-238-6666. Davide scrive: ho delle obbligazioni Ford che scadono a gennaio 2009 in forte perdita. Potrebbero non rimborsarle, venderle ora anche se in perdita? Ford è una delle case automobilistiche in difficoltà che sta aspettando che il governo americano vari o meno il pacchetto di aiuti, non solo per Ford ma per, insomma, si dice i tre grandi di Detroit, no? E questo sta anche movimentando un po' i mercati. Drusiani? Io credo che laddove dovesse intervenire anche il famoso ricorso al chapter 11, al capitolo 11, sì, della legge americana, della legge di fallimento americano, comunque a mio parere sia il Tesoro sia l'amministrazione in carica interverrebbero per pagare sia i fondi pensione di queste aziende, quindi compresi sia i debiti che hanno contratto. Quindi il fallimento riguarderebbe sicuramente gli azionisti, ma non di sicuro gli obbligazionisti, perché questo vorrebbe dire un disastro globale. Quindi gli azionisti sanno fin dall'inizio che il rischio di investire in questa tipologia di strumento è abbastanza grande, l'obbligazionista no. E quindi secondo me sicuramente le autorità monetarie interverrebbero per evitare. Quindi le rimborserebbero? Secondo me sì. Dice: conviene venderle ora anche se no, in perdita? Io non le venderei a questo punto. Certo, quello del settore automobilistico è un grande tema in America, forse anche in Europa in maniera minore? In misura minore sicuramente anche in Europa. Il problema delle case automobilistiche è un problema molto grande, perché abbraccia un numero di dipendenti diretti e indiretti abnorme. La costruzione di veicoli ha forse raggiunto livelli molto alti, e se non si trova un mercato tipo quello cinese che comincia a comprare, c'è un eccesso di produzione che ovviamente costringerà le case automobilistiche a, non dico chiudere per un po' l'attività, però circa. Quando si parlava qualche tempo fa di possibile contagio all'economia reale, Sembra che stia arrivando. Non vogliamo fare i pessimisti, sì, ma insomma sì. Il settore auto è veramente economia reale, si parla di operai, di proprio di licenziamenti possibili o meno, speriamo meno. Ci sono due problematiche secondo me, una di livello psicologico che in fase di rallentamento dell'economia, addirittura di recessione come si teme possa accadere, le persone consumano di meno. Non comprano l'auto nuova. Non comprano certamente l'auto. L'altro aspetto negativo è che le banche, se non interverranno delle situazioni esterne tipo quelle dello Stato, hanno difficoltà a finanziare le aziende. Quindi le aziende, se non hanno le banche che le finanziano, difficilmente possono sviluppare il loro futuro. E in questo senso c'è una certa chiusura da parte degli istituti bancari nei confronti degli imprenditori in generale. Vorrei fare solo un breve volo pindarico per il signore che ha comprato le Ford. Ciò che è importante, e questa è una situazione a cui io faccio riferimento molto spesso, è la diversificazione del portafoglio. Se non si ha una forte propensione al rischio su questa tipologia di titoli, che sono titoli comunque a rischio, è meglio investire in maniera oculata, nel senso di non eccedere, non so, non si può investire il 40-50% ad esempio su un'obbligazione Ford. Quando si è arrivato al 5-10% la quota è già molto molto alta. Ci chiede Marco di farle fare una previsione sugli indici 2009. Per quanto riguarda la crescita economica negli Stati Uniti e in area euro, che sono in pratica le aree più importanti per l'Occidente, naturalmente, l'impressione che si ha è che si possa essere a crescita vicina allo zero. Il Fondo Monetario stima addirittura crescita negativa in ambedue i campi, però io non sono così convinto che avremo una crescita negativa dello 0,50 negli Stati Uniti e 0,60-0,70 in area euro. Avremo una crescita vicina allo zero. E credo che sarà una crescita sostenuta paradossalmente proprio dalla Cina, che sta facendo degli investimenti in Occidente per evitare che l'Occidente rientri in depressione forte, perché se entra in depressione l'Occidente, la Cina non sa più che fare, perché non vende certo al proprio interno. Quindi non mi aspetto una caduta così rilevante come invece in questo momento gran parte dei previsori sta facendo. Forse sono un po' troppo ottimista, però insomma non mi aspetto una caduta generalizzata dell'economia. No, un altro ascoltatore ci rimproverava di essere troppo pessimisti, quindi vede, ci sta. Ci siamo salvati. Sergio dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo sapere una previsione per fine dicembre, se possiamo rivedere il dollaro a 1,40. Quindi sulle valute, a 1,40? È possibile. Drusiani. Io credo che gli Stati Uniti, grazie alla loro politica elastica a livello di banca centrale e anche di amministrazione di governo in generale, potranno far uscire potranno uscire prima dalla crisi. È vero, sono entrati prima di noi, però usciranno prima dalla crisi di quanto avverrà in Europa, dove la rigidità è maggiore. Di conseguenza io non credo che il dollaro peggiorerà nel corso dei prossimi mesi nei confronti dell'euro, ma viceversa, che ci possa essere una tendenza a vedere il dollaro verso quota 1,20. Qualcuno addirittura, chi è più ottimista nei confronti del dollaro, lo vede addirittura in parità, ma mi sembra un passaggio un po' troppo rapido questo. Però verso quota 1,20, addirittura 1,18 e anche 1,12 sono gli aspetti, i livelli tecnici a cui il dollaro potrebbe arrivare nei confronti, cioè l'euro potrebbe arrivare nei confronti del dollaro. Quindi un deprezzamento dell'euro a favore del dollaro, secondo me, è un'ipotesi possibile. Quindi io a 1,40 rapporto tra euro e dollaro, francamente, in questa fase non lo vedo. Va bene. Grazie, la ringrazio. I titoli del lusso o in generale il comparto stanno un po' soffrendo, penso che temano di essere colpiti nelle vendite, America, Cina, quant'altro. Russia. Perché uno dei mercati principali del lusso era divenuto la Russia. Ora la Russia, con da un lato il calo sensibile del prezzo del petrolio, che è un bene importante per la Russia, perché difatti negli ultimi tempi si sente poco anche il primo ministro russo, parla un po' meno perché la ricchezza gli si è sciolta le mani. Esattamente. E l'altro aspetto è che le grosse aziende russe, che avevano investito tantissimo sui mercati finanziari, hanno perso in maniera rilevante. I famosi oligarchi russi che avevano investito tantissimo denaro in azioni e tipologie di investimenti in Occidente hanno perso in maniera molto importante. Quindi la Russia in questo momento è un mercato che sta cedendo, sta comprando pochissimo. E di conseguenza il settore del lusso, che ha lì un fortissimo mercato, è in crisi. Lo stesso Giappone non sta crescendo, anzi in difficoltà. In recessione, dicevano due giorni esattamente, fa. Esattamente, in difficoltà, di conseguenza i mercati classici, gli stessi Stati Uniti in questo momento certamente non consumano come negli anni passati, quindi anche il settore del lusso sicuramente risente negativamente di questa fase. Mosca, tra l'altro, ieri come borsa, lo ricordiamo, ha perso il 7%. Ma quindi... tempo fa aveva addirittura anche chiuso. Certo, sì, aveva chiuso per un paio di giorni. Per cui questo significa che evidentemente la difficoltà in Russia è molto molto forte. Anche se i russi lo sanno relativamente, no, nel senso che sta ben attento il governo a riportare queste notizie sulla stampa. E questo è un altro capitolo di cui si parlerà in un'altra occasione. Buona giornata, bentornati a Salvadanaio. Oggi parliamo di mercati. Un ascoltatore, chiedo innanzitutto agli ascoltatori che ci stanno chiamando di essere così cortesi di stare in linea. Volevo parlare con Drusiani di Alitalia, nel senso che un ascoltatore, Marco da Milano, ci dà questo input: che fine faranno le obbligazioni all'Italia? All'Italia è un capitolo proprio a parte. Ieri ne ha parlato anche l'amministratore straordinario Fantozzi. I titoli della compagnia, lo ricordiamo, sono sospesi dal listino dal 4 giugno scorso, le azioni ordinarie, le obbligazioni e i relativi derivati da allora non sono state più ammesse alla contrattazione. Che fine faranno questi azionisti? Questo è tutto da vedere. Mi pare che anche Fantozzi si sia espresso così. Molto negativamente. Sì, per quanto riguarda le obbligazioni, se non viene data l'opportunità di trasformare in azioni CAI, sarà difficile che possano avere un valore, perché la conversione in azioni che non hanno più valore ovviamente corrisponde a zero. Il tasso di interesse che offrono è molto basso, quindi il rischio di vedere queste obbligazioni scendere ancora a livelli bassissimi di prezzo, addirittura non dico azzerarsi ma quasi, non è da escludere purtroppo. E anche per chi ha azioni, anche la prospettiva perché, non è da quello che ha detto Fantozzi rose. La prospettiva non è rosa. Adesso che scendano a zero sia l'uno sia l'altro è pressoché impossibile, però che sicuramente prendano, abbiano delle perdite rilevanti, questo può accadere, perché dipenderà anche da quanto riesce a ricavare poi Fantozzi dalla vendita degli asset che sono rimasti nell'Italia, e quello sicuramente poi andrà suddiviso tra azionisti e obbligazionisti. Enrico da Cagliari, buongiorno, grazie per essere stato in attesa. Buongiorno. Dica. Volevo chiedere l'opportunità di investire su degli ETF su Cina e India in una formula, diciamo, autocostruita, nel senso faccio dei piccoli acquisti nell'ordine dei 5.000 euro e anziché differenziarli temporaneamente. Enrico, la sentiamo male e comunque si sta addentrando in alcuni tecnicismi. Lei comunque, mi pare di capire, voleva entrare in un investimento di ETF. È una scelta interessante intanto perché ha dei costi molto bassi rispetto alla media degli strumenti finanziari che sono presenti sul mercato. Ecco, Cina e India, comprando adesso con le perdite che hanno avuto i loro listini, potrebbero rappresentare delle scelte abbastanza interessanti, purché l'ottica sia di medio-lungo periodo, perché nell'immediato non vedo delle prospettive interessanti per i due paesi, perché prima parlavamo della crescita negativa o comunque uguale a zero che potrebbe esserci in area occidentale. Ecco che in Cina la crescita quest'altro anno potrebbe essere attorno al 6-7%, che rispetto alla media del 10-12% è esattamente la metà, quindi questo significa che anche le aziende cinesi non avranno dei buoni risultati. Lo stesso vale per l'India, quindi nell'immediato non credo che porterà risultati interessanti investire in ETF cinesi o indiani, ma nel medio periodo penso di sì, perché quando l'economia riprenderà sicuramente questi due paesi riprenderanno a correre come hanno fatto fino ad oggi. Però non nel breve medio. Nel breve medio. Penso proprio di no. Orlando da Mantova, buongiorno. Buongiorno, vorrei fare proprio una domanda sul mercato emergente, visto che io ho degli investimenti nel mercato emergente brasiliano, partendo dal presupposto che questo paese, essendo un grosso produttore di materia prima, fino adesso non è stato toccato dalla crisi. Il problema e la mia paura è che oggi c'è un vertice tra Fiat, General Motors e Ford, giustamente con il governo brasiliano, perché si è verificato già una contrazione. Vorrei un consiglio di cosa fare in questo caso. Orlando, lei è brasiliano? Sì, pronto, sì. Gioca in casa, Drusiani. Il mercato brasiliano dovrebbe subire contrazioni un po' meno rilevanti di quanto accade negli altri paesi emergenti, perché gode la possibilità di esportare materie prime importanti che sono richieste ovunque, compreso anche il petrolio. Quindi mi aspetto però una contrazione ovviamente della crescita nel corso del 2009, come accade per l'intero per l'intero globo in sostanza, però non mi spaventerei più di tanto, perché mi sembra che l'economia brasiliana sia condotta in questo momento abbastanza bene, con oculatezza, e di conseguenza presumo che tra i paesi emergenti sarà quello che ne subirà gli effetti meno negativi. Certo, non ci si aspetta nell'arco del 2009 delle crescite anche a livello di redditività importanti, anzi probabilmente avremo un andamento non tutt'altro che brillante dei mercati per la prima parte del 2009, poi mi aspetto un miglioramento anche delle borse dei paesi emergenti abbastanza importante, quindi ci vuole pazienza. Con medio periodo credo che anche per il Brasile il ritorno potrà essere interessante. Visto che stiamo parlando del Sud America, uno spunto su l'Argentina. Il Parlamento argentino ha approvato la nazionalizzazione, di cui sarà tanto parlato, dei fondi pensione privati, aprendo la strada al trasferimento di circa 26 miliardi di dollari a un sistema unico di pensioni statali. Il progetto è stato molto criticato dai mercati, oltre che dai partiti d'opposizione. Tra l'altro, questo provvedimento ha contribuito ieri a un tonfo della borsa di Buenos Aires. Insieme alle notizie internazionali, la borsa è scesa del 6,58%. Drusiani, l'Argentina ci fa sempre un po' temere. Fa soffrire. L'Argentina è un paese evidentemente destinato a procurare sofferenze sul mercato finanziario. Certo, non è una bella notizia. Evidente che le casse dello Stato non sono proprio così ricche, perché se no non si sarebbe ricorso a questa tipologia di decisione, molto criticata. Assolutamente. Non è sicuramente un buon viatico per chi aspetta ancora il rimborso delle obbligazioni argentine. I famosi argentine. Tango bond. Mauro D'Alessandria, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Grazie per l'opportunità che mi avete concesso. Senta, vorrei chiedere al dottor Drusiani, che peraltro seguo da parecchio tempo sulle riviste specializzate, dico, ma in questo momento così catastrofico per la finanza mondiale, I beni rifugio come l'oro, che fine hanno fatto? Cioè, 15 mesi fa si leggeva sulla stampa specializzata dell'oro a 1.000-1.200 dollari l'oncia. Volevo avere un parere dal dottore. Grazie Mauro. Drusiani, la chiamata in causa. Esatto, fino a qualche tempo fa addirittura si ipotizzava che l'oro avrebbe potuto arrivare fino a 2.000 dollari l'oncia. Beni rifugio ce ne sono tanti, perché oltre all'oro ci sono le materie prime. Paradossalmente negli ultimi anni un bene rifugio importante, di più facile accesso, ed è quello che ha rubato la scena sia all'oro sia agli altri, sono i titoli di Stato, paradossalmente. In particolare i titoli di Stato tedeschi hanno richiamato investimenti abnormi, tant'è che i prezzi sono saliti, le quotazioni sono salite in maniera eccessiva, penalizzando i rendimenti in una fase in cui forse sì, sarebbero stati penalizzati, però non così, così fortemente. Quindi ecco dove sono spariti i beni rifugio. Sono spariti a favore di titoli di Stato che sono più facilmente raggiungibili, più conosciuti e con minori rischi rispetto all'investimento in oro. E abbiamo proprio una telefonata di Angela dalla provincia di Treviso che vuol parlare di titoli di Stato. Angela. Pronto. Buongiorno. Buongiorno, in diretta. Lei voleva parlare di titoli di Stato, mi pare. Stiamo parlando di titoli di Stato quali bene rifugio. Dica, siamo in chiusura, la prego di essere veloce. Ecco, volevo chiedere un po' di previsioni per il prossimo futuro, per quello che riguarda i titoli di Stato italiani e per il loro futuro rendimento prevedibile, ed eventualmente se il suo esperto ci parlasse di eventuali titoli di Stato turchi, del governo turco. Grazie Angela. Per quanto... vi ringrazio in anticipo, vi ascolto la radio, complimenti alla conduttrice per il suo garbo e all'esperto Drusiani per la sua chiarezza. Grazie. Grazie Drusiani. Sì, per quanto riguarda l'andamento dei rendimenti nei prossimi mesi, per i prossimi sei mesi credo che ci sarà una tendenza di tutta la curva, sia titoli brevi sia titoli lunghi, a scendere ulteriormente, quindi i rendimenti ancora in calo. Nella seconda parte del 2009 però mi aspetto una controtendenza, nel senso che le continue emissioni da parte degli stati per intervenire in difesa delle banche, forse anche del settore automobilistico, potrebbero spingere i tassi in rialzo. Quindi attenzione che nella seconda parte dell'anno prossimo potremmo avere un po' di guai. Per quanto riguarda invece i titoli turchi... Turchi, interessante questa sì, rendono tantissimo idea. Dal punto di vista teorico, però attenzione che la lira turca è un po' in difficoltà. Si stava riprendendo negli ultimi tempi quando si presumeva che nell'arco di 10 anni sarebbe entrata nell'area dell'euro, nell'Unione Europea, però adesso mi sembra che si stia raffreddando e per motivi politici e per motivi economici. Quindi il rischio che si ha comprando questi titoli è che i rendimenti teorici sono molto alti, ma il rischio di perdere sulla valuta è talmente rilevante che potrebbe spingere ad avere qualche difficoltà. Grazie al nostro ospite Angelo Drusiani di Banca Albertini SIZ, grazie a tutti voi in redazione a Gaia Romani e Valeria Coffaro, gli ascoltatori, da Valentina Furlanetto è tutto, Salvadanaio torna lunedì.